ricordiamo questo discorso che è di grande entità intellettuale, che riguarda la metafisica, e riguarda che cosa è la metafisica per Valéry. La parola metafisica nasce per caso, volevo dire, intanto per la cronaca, insomma, no? Sono i libri in Aristotele che vengono dopo la fisica, in questo senso vengono chiamati metafisica, sono i libri che vengono dopo la fisica. Poi il termine ha avuto un enorme successo e variazioni abbastanza profonde. Per metafisica si intende genericamente la teoria dell'essere, ecco, la teoria dell'essere considerato in se stesso. E l'espressione metafisica poi è stata usata in questo senso, del metaphysis, cioè dell'oltre la natura, quindi dell'oltre la sperimentazione. Quindi la metafisica tratta di cose che non è possibile sperimentare. Per cui anche poi nel linguaggio comune queste sono questioni metafisiche, vuol dire che sono questioni astratte, questioni appunto che si sottraggono alla sperimentazione. Benissimo. Ora, la metafisica è l'obiettivo polemico più importante, più significativo di Valéry. Vi ricorderete che lui parte da una contestazione della letteratura proprio in quanto la letteratura è cosa astratta e arbitraria, e a seguito di questa contestazione decide di occuparsi delle scienze matematiche. Con il tempo la sua polemica si allarga dalla letteratura alla metafisica e intende con metafisica, come vi dicevo già la volta scorsa, tutto ciò che non è verificabile, tutte le nozioni che non sono verificabili e peraltro esercitano un grosso fascino su di noi. Perché esercitano un grosso fascino su di noi? Perché, vedete, noi abbiamo dentro di noi una zona di mistero, di oscurità, di cui nessuno è informato adeguatamente. Tutti sentiamo questa zona come incombente nella nostra vita, al punto tale che quando uno poi sta male, che cosa fa? Fa la psicoanalisi, fa una terapia per cercare di capire queste cose misteriose che stanno dentro di noi. Non solo, ma noi il mistero lo avvertiamo anche nella storia che ci circonda, no? Da una parte nella nostra esistenza esistono cose che sono sperimentabili, sono tante le cose sperimentabili. Se io metto dell'acqua sul fuoco, quest'acqua in assenza di additivi chimici o di altra sorta bolle a 100 gradi e possiamo essere tranquilli che queste verificate certe condizioni di partenza avverrà sempre, no? Se io pesto il piede a una persona, sono assolutamente certo che il sistema nervoso della persona farà sì che questa persona abbia un male al piede. Questo avverrà sempre, a meno che la persona naturalmente non abbia dei disturbi percettivi, per cui io, insensibile al dolore, posso pestare il piede e questa persona non sente. Molte cose sono verificate. Ma ci sono molte cose che non sono verificabili e fanno parte del mistero, che noi lo chiamiamo mistero, della nostra vita, o mistero della nostra storia. La ragione per cui la metafisica ci affascina è perché sembra parlare direttamente a quel mistero, sembra dar conto di quel mistero, sembra in qualche modo incontrarsi con quel mistero. Andiamo lenti su questo discorso che è molto importante. Quando noi abbiamo delle difficoltà di rapporto con una persona con cui stiamo insieme, abbiamo un rapporto affettivo, che cosa accade? Diciamo che questa persona diciamo noi stessi non ci capisce, no? Non riesce a entrare dentro di noi. Magari tantissime cose funzionano bene, cose sessuali, o si scherza bene assieme, eccetera, però in ultima analisi questa persona non ci capisce. Che cos'è che dovrebbe capire? Dovrebbe capire quello che neanche noi capiamo bene in realtà, ma noi sappiamo che se lo capisce, allora riscatta un contatto profondo. Noi vogliamo essere capiti, vogliamo essere capiti, vogliamo essere capiti dagli amanti, vogliamo essere capiti dai congiunti, dai parenti, dai nostri genitori, dai figli e dagli amici. Certo, un requisito fondamentale perché Paolo mi sia amico e che Paolo mi capisca, no? Paolo non potrà mai essermi amico se Paolo non mi capisce. Questo uomo di mistero e di silenzio che è dentro di noi, la metafisica sembra andargli incontro e per questo ci affascina. Adesso vediamo poi quali sono queste nozioni metafisiche, perché qui ora il discorso è astratto, facciamo degli esempi concreti. È chiaro questo fin qui? Bene. La metafisica, peraltro, come stiamo per vedere negli esempi che facciamo, semplifica. Semplifica. Cioè, con le sue parole magiche, con le sue parole magiche e sacrali, chiude un'interrogazione, una domanda, una ricerca. La metafisica è una risposta, per così dire, e ultima, e quindi oltre non è più possibile andare. Ma il valore massimo, per Valéry, abbiamo detto che il disvalore massimo è la metafisica, il valore massimo è invece la ricerca intellettuale. Anticipo un concetto che diremo fra un po', è che la ricerca è a tal segno di valore massimo che quando noi ci siamo illusi di essere arrivati a una forma di chiarezza in un ragionamento, dice Valéry, bisogna disfidare, perché quella chiarezza è semplicemente una convenzione. E perché ci siamo rotti del caso e indagare, o perché non ce la facciamo più. Ma ogni chiarezza, dice lui, è una convenzione. La ricerca non ha fine. La metafisica pretende invece di dare delle parole definitive alla nostra vita. Una nozione metafisiche sono dunque le nozioni che non sono sperimentabili, che hanno un grande esercito, un grande fascino su di noi, che esercitano un grande potere su di noi. E sapete come fanno a esercitare questo grande potere? Perché colpiscono rapidamente. Diciamo così, ci fregano col tempo, sul tempo. Sono troppo veloci le nozioni metafisiche, escludono il ragionamento, e quindi ci colpiscono prima che ce ne rendiamo conto. Ma adesso voi mi dovrete chiedere, mi dovrete chiedere, ma queste nozioni non verificabili, che sono le nozioni metafisiche, che affascinano perché ci danno l'idea di toccare la nostra vita interiore, che semplificano perché sono con parole ultime, dopodiché la ricerca non c'è più, l'indagine non c'è più, che hanno tanto potere perché agiscono rapidamente su di noi. Che cosa sono? Mi vuol dire nome e cognome, potreste chiedervi delle nozioni metafisiche? Ecco qui, ve ne dico alcune tra le più importanti. La prima nozione metafisica è quella di assoluto. Assoluto è, come ben sapete, una parola latina, evidentemente, absolutus. Solutus dal verbo solvo, vuol dire sciogliere, io sciolgo. Ab è naturalmente la preposizione del complemento di agente, quindi sciogliere da. Ab indica allontanamento, quindi absolutus è sciolto da cose, da altre cose. Sciolto da altre cose. Ora, se noi applichiamo al concetto di assoluto un metodo sperimentale, fondamentale, vediamo che il concetto di assoluto è una sciocchezza, perché niente nella vita è sciolto da tutto, e al contrario, tutto è collegato a tutto, tutto è dipendente, tutto è dipendente. Questa dipendenza di tutto da tutto, noi lo possiamo continuamente verificare. Il nostro umore dipende da come ci siamo alzati al mattino. Ma se la digestione è stata buona, l'umore è uno. Se la digestione è stata cattiva, l'umore è un altro. Una parola gentile che abbiamo ricevuto, no? E ci cambia l'umore. La ragazza di cui ho voluto stroncare la tesi 20 minuti fa, in modo oculato, ecco, probabilmente in questo momento non sarà molto contenta. Una ragazza che conosco da anni, ma amico di Platos, magis amica veritas, bisogna dire le cose in faccia alle persone. O forse le dice poi che non dica in faccia alle cose alle persone. Suppone che io le ho punite. Quando è uscita, non stava sulle sue gambe, poi la ragazza. Cercava di confrontare. Che passerà. Dipendiamo dagli altri. Tutti dipendiamo dagli altri. Se un altro ci gratifica, stiamo bene. Se un altro non ci gratifica, no. Siamo sitibondi, assetati di gratificazione. I nostri amici sono quelli che ci gratificano, che ci dicono che siamo belli, bravi, buoni, intelligenti, migliori per loro. Se abbiamo un rapporto amoroso, vogliamo che il partner ci dica che nessuno ha scopato meglio lei di noi. Che i tempi organici sono stati una cosa spettacolosa, eccetera. La dipendenza dagli altri, la dipendenza dall'altro, è così verificabile, la dipendenza dall'altro, che in taluni casi si arriva a un fatto che uno senza l'altro, l'altro con la maestra, non si sente esistere. Quando, vecchio discorso che faccio sempre, quando ci sono certe coppiette che si scoppiano, la persona che se ne va via non è che porta via solo se stessa, ma porta via anche l'altro. È come se ti portassi via il fegato, la minza, nel senso che tu ti perdi dall'altro, no? Quindi devi trovarti un nuovo luogo, un nuovo elemento, diciamo così, a cui affiliarti sostanzialmente, no? Tutta la vita affettiva dell'essere umano è un desiderio di trovare qualcuno a cui agganciarsi. Questo vuol dire ridurre la portata della vita affettiva molto, vuol dire vedere, secondo me, la sua dimensione inizialmente appunto troppo umana, riconosciamo. Umana, troppo umana. Il fatto però che una cosa dipenda da un'altra, il fatto che noi dipendiamo dagli altri, ci rende, come dire, permeabili agli altri, no? Porosi. Oh, prendo bene l'idea, lei sta seguendo con attenzione. Se piove e lei si mette un impermeabile, ci sono altre probabilità che l'impermeabile muore, che la pioggia non è. Ma se lei, così come è vestita, con questa camicia, va fuori e si prende la pioggia penetra. Ebbene, di nuovo questa rivelazione, noi non siamo permeabili. Siamo tutti permeabili, siamo tutti, prendete queste immagini, in condizioni di beccarci la pioggia di umidirsi e di infranciarsi. La permeabilità all'altro fa sì che la purezza diventa qualcosa di impossibile. Qual è la purezza in fondo, no? La persona pura è una persona che non è toccata dal mondo esterno. Lei si chiama? Luca. Luca. Abbiamo già fatto un esame di analisi filologica, lo so, ma che vuoi dire? Da una certa età uno dimentica i nomi con facilità, quelle triste forme di liquescenza della mente, della lingua pazienza. Di chi stiamo parlando? Della una volta ci si sposava con una ragazza pura, l'educazione cattolica che in Italia ha allineato per tanto tempo e tutto di grazie a Guini e allinea, fa sì che una ragazza deve arrivare al matrimonio come pura, cioè pura. La mia zia diceva come mamma l'aveva fatta con i bene. Non toccare. Sappiamo che oggi tutto questo è messo a dura prova. E diciamo che se questo avvenisse, cioè se la purezza avvenisse, avvengono delle nevrosi spaventose, assolutamente terrificanti. Il Papa proprio adesso dice che il rapporto sessuale non solo non avvenga di fatto, ma nemmeno a parole. Quindi allora il fidanzamento dovrebbe avvenire. Con quale discorso? Potrebbero parlare i due fidanzati del PIL, del prodotto interno lordo, che è l'unica cosa di cui potrebbero parlare, intrattenersi serate intere, no? A parlare del PIL, se il sottosegretario vuole gli esteri sia adeguato, no? E qualunque discorso andato sul lato dei sentimenti dovrebbe essere controllato. Queste forme di deliranti, follie della Chiesa Cattolica, ed è poco la bava alla bocca, ce l'ho, potrebbe uscire, se mi guardate la canzone, un filino bianco, bava alla bocca, offrendo uno spettacolo indecoroso, e fa sì che la purezza in realtà è poco purezza, li meno qui sopra, ma perché il pensiero non può essere impuro, io ho conosciuto fiori di ragazze pure che erano dei cessi con i loro pensieri, oppure non eccessi, ecco, semplicemente ricchi di fantasie per le scelte, chi vuole? Poi a un certo punto non muove più, il ritmo delle mutazioni ormoniche complesse, sostanzialmente. Ma la purezza, dove sta la purezza? Ma nessuno è puro, no? Prima di Freud si pensava che i bambini fossero puri, fossero innocenti, no? Noi sappiamo che l'innocenza, la purezza, cioè il non contatto con l'altro, questo abbiamo parlato, è impossibile, è assolutamente impossibile. Dipendenza dall'altro, purezza quindi impossibile, quindi. Stiamo parlando dell'assoluto, quindi se l'assoluto non c'è, sapete che cosa viene a mancare? Viene a mancare la possibilità di esaudire il nostro desiderio di sublime. Perché quando noi vogliamo l'assoluto, che cosa intendiamo dire con questa frase voglio l'assoluto? Intendiamo dire una cosa, voglio Dio. Prendiamo un rapporto sentimentale e la frase che almeno tra ragazzi, poi uno la dice meno nella vita, ma almeno tra ragazzi si dovrebbe dire quando uno è in uno stato di effervescenza emotiva è che ti amo in modo assoluto, è così o no? In modo assoluto, cioè in modo che non ha rapporti con niente altro, è vero o non è vero questo, ma lei come reagirebbe? Lei è un ragazzo, ma la faccia di uno ce l'ha. No. Non ce l'ha, è ammazzo, non ho più quella vecchia perspicacia. Ma se il ragazzo una volta che ci fosse dice, mi avvengo di chiamare? e dare da nome, Frano, ognuno di voi. Albania. Ah, molto bello. Se gli dite, se gli dicete, mia cara, ti amo di un amore relativo, no, questo è un discorso molto serio, eh? Ecco, quanto dura un amore? Amore da poco. Di non perdi. 100 anni? No. 6 mesi? 9 settimane e mezzo? Ma pensiamo che il fidanzato, la fidanzata, ti dicesse io ti amerò per 11 anni e 2 mesi. Questo discorso che io faccio sempre. Oh, guardate che 11 anni e 2 mesi sono un tempo considerevole, voglio vedere quanti amori arrivano ai 11 anni e 2 mesi. Ma l'altro rimarrebbe un pochino scosso, diciamo, con 11 anni. Ma per poi che succede? Vabbè, i parti sono fatti. Siccome i parti sono fatti alla scadere del 102 mesi, tanti sono domestici, fanno di casa una gomma orrenda, no, stupido direi. Quello che noi vogliamo è l'assoluto. Vogliamo che lo scrittore che amiamo sia il più grande. Vogliamo che le cose a cui ci invitiamo siano senza difetti. I nostri figli vorremmo che ci amassero in modo assoluto. Ebbene, il dramma della vita è che noi, al contrario, non soltanto non possiamo sperimentare l'assoluto, ma sperimentiamo l'opposto, che l'assoluto non esiste. Cioè non basta il fatto che non sperimentiamo l'assoluto, ma sperimentiamo che tutto è relativo. Non soltanto non sperimentiamo Dio, ma sperimentiamo l'assenza di Dio. Questo è talmente vero, dolorosamente vero, che voi capite perché l'attuale pontefice ci abbia tanto, non contro i comunisti che ormai sono morti, eccetera, eccetera, ma contro il relativismo. Ecco, contro il relativismo. Il vero nemico è il relativismo. Il relativismo. Eppure, voi capite bene adesso come questo concetto assoluto sia un emblema di concetto metafisico. Perché è un concetto non sperimentabile, anche sperimentabile l'opposto, il relativo, è un concetto che ci affascina, è un concetto che ha un grosso potere su di noi, perché appena noi siamo in presenza dell'assoluto subito ci sciogliamo. Anzi, tornando ai rapporti sentimentali, che sono sempre un ottimo metro per valutare questo genere di discorso, quanto il rapporto che noi abbiamo con Tizio, Caio e Sempronio è un rapporto non assoluto ma manifestamente relativo, noi siamo dispiaciutissimi e cerchiamo di farlo andare in tutti i modi nel senso dell'assoluto, nel senso dell'assoluto. E se questo non capita, noi sentiamo un senso di mancanza, è quella che un grande come Hegel chiamava la coscienza infelice. La coscienza infelice è quella per cui noi sentiamo la carenza del mondo in cui dobbiamo vivere. Ma non c'è niente da fare, l'assoluto non c'è. Siamo tutti legati, l'uno all'altro, e alle altre cose, e alle cose intorno. Facciamo altri esempi di nozione metafisica. Un'altra nozione metafisica splendida e corrente è l'io. Pascal, mi sta venendo in mente in questo momento, ha detto una frase che tutti conoscete. Ha detto le moi è haïssable, l'io è odioso. Pascal era uno di intelligenza strepitosa, strepitosa, un po' pazzo, a un certo punto era convinto, ha fatto un saggio sulle coniche a 16 anni, era un matematico eccezionale, ha fatto cose da genio, detto che si è meraviglioso, francese, eccetera. L'ultimo era persuaso, stava male, e uno che è sempre stato male, Pascal, è così felice adesso. Sapete cosa devo dire, per sempre male. Ogni giorno della mia vita gli sono sofferto. Ogni giorno della mia vita, negli ultimi tempi, Allora, la sensazione di cadere. Di cadere a sinistra. E allora giravo con una seggiola. Perché la seggiola doveva servire a ripararlo dal collo a sinistra. E questo era applicato. Perché Pascal diceva che Dio è odioso? Perché è il cattivo gusto mostrare io, sì, diceva anche per questo, ma perché l'io, soprattutto lui, avvertiva che è falso, che è falso. Di quanti io siamo fatti? Voi, tra le scarne cose che la scuola vi ha dato, avete sicuramente fatto per la maturità, o lo conoscete, perché all'italiano si fa, perché cose in più, un grande scrittore che è Pirandello. Sapete nulla, nulla per Dio. Però Pirandello è una delle cose che sapete. Io non ho ancora capito attraverso quali congegni di letteratura italiana sapete tutto di Pirandello. Ecco, vediamoci, Claudio è al fatto tutto. Allora, tutti sapete che Pirandello diceva che noi siamo uno. Questo è falso, questo è falso. Ma guardate la verità, perché non sapete un tubo di nulla, ma sapete però. Però è vero. Come siamo? Lei sta seguendo? Come siamo? Siamo diversi secondo le persone con cui ci rapportiamo. Per esempio, una delle cose che alle ragazzine come voi dicono i genitori è: come vai a essere così scortese, sgarbata qui in casa, quando invece, quando sei in pubblico, sei così carina, gentile, docile? E qui sei una stronza di questo. Loro dicono una cosa, poi, cari, nella loro ingenuità, che è assolutamente vera. Cioè, uno muta secondo la persona. Se io mi trovo a parlare con il mio amico preside, no? Io sono il vicepresidente, come preside parliamo spesso. Io non ho dei sentimenti, vi confesso, di tenerezza sessuale, cioè, no? Cioè, non mi viene in mente di avere farci, così, di prendergli la mano. Questa è una cosa che mi fa ripugnare. L'altro giorno mi ha detto: ho un problema da caviglia, e io gli ho avuto un certo senso di disgusto. E lui cosa ha fatto? Lui era solo, si è alzata il pantalone e si è abbassato il calzino, mi ha fatto vedere il polpaccio peludo. La cosa ha fatto un po' schifo. Io ho cercato di partecipare al suo ruolo, lui ha detto: se volevo ancora vederlo, perché no, mi è fatto così, ho capito perfettamente di che si tratta, ci ho detto. E gli ho dato un consiglio, tanto perché non mi facesse più vedere il portafoglio. Se solo però a contatto con persone che cerco di sedurre, o altri modi, no? Un cambio. Se io parlo con uno studente, parlo in modo, un collega, un altro, quindi chi sono io? Non sono, secondo argomentazione interessante. La persona umana si comporta come si aspetta che gli altri la vedano, come si aspetta che gli altri credono che lui debba comportarsi. Facciamo un esempio, no? Mettiamo che io abbia un rapporto con una giovine, la quale mi ritiene un civico straordinario. Questa giovine viene a letto con me. E viene a letto con me perché mi ritiene un omaggio, avete capito? Un puntalone, un cibo. Ma io dovrò stare attentissimo a recitare questa parte involontariamente, perché se recitassi la parte invece di una mammoletta, questa non verrebbe a letto con me. Ci sono delle persone che tu vedi in corridoio qua, tra gli studenti, che sono molto disinvolte, spigliate, ma nel momento in cui hanno un contatto con un professore diventano timidissime, oppure mettono in mostra tutte le loro armi per cercare come possono di sedurlo al fine di avere un bel voto, naturalmente. Ecco, allora qual è la verità di questa persona? La verità vostra dipende dai contatti che abbiamo, dalle attese che le persone hanno nei nostri confronti. Ma dire questo significa dire qualcosa di importantissimo. A chi è attribuibile dentro di noi un atto che noi compiamo? A chi è attribuibile? Chi ha agito? E prendiamo un caso clamoroso. Avete presente un delitto che ha occupato le pagine dei giornali, della televisione, in questi anni, che passa con il nome del delitto di Cogna? Lo sapete tutti. La presente lei? Lei la presente? Quindi lì c'è una signora, bella, una buona, eccezionale, diciamo pure. Vabbè, dipende dal punto di vista, lei ha conosciuto di poco. Però sono per conto, La quale è stata fino al giorno prima un'ottima mamma e moglie, persona di limitate qualità intellettuali e culturali, probabilmente a questo discorso su Valerino sarebbe sofferentemente interessato, no? Ma da un certo momento in poi avviene un fatto che, se lei fosse responsabile, è certamente spaventoso. Un fatto comunissimo, ieri, in Belgio, vicino a Bruxelles, una donna di 50 anni aveva 5 figli, il più piccolo 3 e il maggiore 15, li ha sgozzati uno dopo l'altro. Chi ha agito dentro quella donna? Chi ha agito, se è assassina, come ci sono molti motivi per pensare, dentro la madre di Cogna? Uno viene mandato in galera. Dopo vent'anni, l'assassino ha dimenticato completamente la persona che era in lui, per cui adesso lui si trova in galera. Di quell'atto ricorda certi dettagli, ma poi la memoria è quella che è. Anche certi dettagli sfumano, l'unica cosa presente è che lui è lì a seguito di qualcosa che ha compiuto. Ma una delle difese che normalmente fa un imputato in un delitto, in un processo, lo vedete alla televisione, è: ma non ero io che agivo, non so chi ha agito. Questo vale anche in situazioni non truci. Quando si pensa ai matrimoni andati male, cioè praticamente tutti, e uno guarda poi le fotografie con la sposa, almeno ai miei tempi è così, in abito bianco, il riso, il velo, la felicità, a volte sì, la felicità sul viso della sposa. E lo sposo? E li si vede vicino. E poi si vedono questi disastrosi disamori che sono fatti o di delitto, oppure in casi molto normali sono fatti di due persone che stanno al ristorante con il giornale senza dirsi mezza parola. Avevo un'amica che ha fatto a caldo, una mia amica in senso intimo, diciamo così, che si sposò con un uomo che amava moltissimo. Poi l'ho vista dopo vent'anni. Lui e lei, che non ha avuto rapporti formidabili, insomma, in casa non si salutavano nemmeno e dormivano, avendo messo nel letto, che lo spazio era quello, non potevano scegliersi camere singole, dormivano avendo messo un cuscino nel letto. Prendo l'idea, per essere esatti, allora uno dice: ma chi era, dove è andato a finire la persona che amava allora? Come è scomparsa? Come si vada a attribuire una responsabilità. E questo è il punto, se Dio non esiste. Voi capite, questo discorso è per una istituzione politica, ma morale soprattutto, un discorso tremendo e inaccettabile. La Chiesa Cattolica non accetterebbe mai di dire che Dio non esiste. No, Dio c'è, Dio può redimersi, Dio è responsabile. Tu sei responsabile, responsabile da rispondere, tu devi rispondere di quello che fai, devi agire, forse qualcuno ve l'avrà detto dei vostri congiunti, devi agire in modo responsabile, devi poter rispondere, devi poter rispondere. E allora lo sventurato potrebbe dire, ma io non posso rispondere, perché non so chi ha agito dentro di me, non posso rispondere. Se io sapessi chi ha agito dentro di me vorrei rispondere. E allora Valerio dice, allora tanto vale affrontare questa questione, che Dio non esiste, che Dio è una delle categorie metafisiche che ci siamo inventati, che noi siamo invece l'unione di molte persone diverse. Non esiste. L'assoluto è una categoria metafisica, l'io è una categoria metafisica. L'amore è una categoria metafisica. Perché? Perché l'amore è una categoria? Perché non abbiamo voluto noi? L'amore non si può volere. È una cosa, io posso volere comprarmi l'automobile, io posso volere arrabbiarmi, va bene? Ma non posso volere innamorarmi. Nell'amore la volontà non c'entra nulla. Ma il fatto che la volontà non c'entra nulla significa che l'amore è incontrollabile. Finché c'è, non c'è niente da fare. La storia dell'umanità si è sforzata di trovare qualcosa per amare di meno, e ci sono dei mezzucci, o video e scritti, remedia moris, cioè pensare delle cose sgradevoli della persona amata, no, per cercare di toglierla dai tuoi pensieri. Sono mezzucci, in realtà sull'amore non si può intervenire. Vi ricorderete che uno dei motivi che Valeria aveva detto della sua crisi era proprio il fatto che non poteva controllare l'emozione amorosa che lo aveva in casa. L'amore può distruggerci, e su questo non c'è alcun dubbio, e comunque nel caso migliore ci rende servi. Quindi siamo di fronte a un qualcosa di non controllabile, che ha un fascino, una forza su di noi straordinaria, analogo al concetto di io. Io mi appoggio al concetto di io. L'io è la mia difesa. Torno un attimo su questa idea. L'io è la mia difesa. Quando sono bambino, io parlo in un modo strano, perché l'io non c'è ancora, come sapete. Cioè, per esempio, lei come si chiama? Adriana, quando era piccola, aveva un anno, non diceva io voglio l'acqua. Si rivolgeva ai genitori e diceva Adriana vuole l'acqua. E questo perché? È perché Adriana non aveva una consapevolezza di sé. Diceva che la persona che tutti indicavano come Adriana, a cui si rivolgevano come Adriana, voleva l'acqua. Lì è una grande difesa. Tu mi puoi fare del male, ma io vedo il male che tu mi fai. Ma lì è una difesa fittizia, perché non esiste. Perché fatto l'io consiste di varie persone contemporaneamente, secondo quanto abbiamo detto. L'amore è categoria metafisica e fittizia perché